Polaroid. Tutto si fa passato così in fretta ed io faccio il revival di ieri. Quando c'erano le guerre in corso, quando c'erano i cuori infranti, quando c'erano i giovani che ballavano, quando c'erano i vecchi che guardavano, quando era il gennaio 82 e a Milano sembrava primavera, avevano preso tutti i brigatisti, venivano notizie da New York e di russi, i polacchi, il Salvador. Io fumavo di notte e ti pensavo, ed era poco prima della guerra, ed era l'immediato dopoguerra. E alle feste passavano gli attori, io vivevo in un tempo senza tempo, ed ero già qui adesso che ti parlo, ma sono scivolato nel passato, e adesso sto scrivendo una canzone, il 5 febbraio 1982, nel tempo esatto di una sigaretta. C'erano gli amori cominciati, quelli finiti, quelli feriti, quelli ingrassati, quelli dimagriti. Polaroid. E l'imperfetto è il tempo del presente, ed il presente è il tempo del futuro. Noi siamo l'acqua, il fiume e la sorgente.